salut del sud, e Johnny leva un pescadù. E Johnny adesso in questo mondo è per più della tancerca. E Johnny adesso in questo mondo è per più della tancerca. E lava d'osta al su, rema Johnny il pescadù. Su si è scappato e mi sembra piovedì, scappa Johnny il pescadù.